La storia dell'inverno che zio Tom aveva passato nelle Black Hills le era ancora così presente che l'indomani mattina a Laura parve quasi strano sentire il fruscio dolce del Chinook, il vento della primavera e lo sgocciolio dell'acqua dal tetto. Era finito l'inverno e lei era al sicuro in paese. Anche quel sabato andò a lavorare dalla signora McKee, mentre mamma e papà restavano con zio Tom. L'indomani Laura, Carrie e Grace andarono in chiesa da sole perché papà e mamma non volevano perdere neppure un minuto della breve visita dello zio, che sarebbe ripartito lunedì di buon'ora per tornare a casa sua nel Wisconsin. Ormai restava solo qualche chiazza di neve qua e là sul terreno intriso d'acqua. Le corse in slitte erano finite, pensava Laura con rammarico. Erano ancora tutti seduti attorno al tavolo dopo pranzo e mamma, papà e zio Tom discorrevano di gente che lei non conosceva quando un'ombra passò davanti alla finestra. Riconobbe subito il tocco alla porta e si precipitò ad aprire. Chissà come mai al manzo veniva anche quel giorno. Ti va il primo giro in calesse della primavera? Ci sono anche Cap e Mary Power. Come no? Esclamò Laura. Non vuoi entrare mentre mi vesto? No, grazie, disse lui. Aspetto fuori. Mary e Cap erano seduti sul sedile posteriore del calesse a quattro posti di Cap Garland. Almanzo l'aiutò a salire sul sedile davanti, prese le redini da Cap e le sedette accanto. Poi Prince e Lady partirono al trotto e in fondo a Main Street uscirono nella prateria, piegando a est. Non c'era nessun altro in giro, ma Laura, Mary e Cap erano allegri e ridevano di tutto. La strada era piena di fango. Acqua e neve schizzavano i cavalli e il calesse e anche le spesse coperte di cotone che si erano tirati sulle ginocchia, ma il vento era mite e il sole tiepido. Almanzo non partecipava alla loro allegria. Guidava i cavalli senza un sorriso né una parola finché Laura gli chiese che aveva. Niente, rispose lui, poi disse in fretta: Chi è quel giovanotto? Non c'era anima viva intorno. Quale giovanotto? Esclamò Laura. Quello con cui parlavi quando sono venuta a prenderti. Laura lo guardò stranita, ma Mary scoppiò a ridere. Non sarei geloso dello zio di Laura? Ah, lui è zio Tom, il fratello di mamma, disse Laura. Mary non la smetteva di ridere, sicché Laura si voltò giusto in tempo per vedere Cap che le sfilava una forcina dalla crocchia, dicendo: Vediamo se così ti ricordi che esisto. Oh, Cap, smettila, dammela, strillò Mary, cercando di prendere la forcina che Cap sventolava in aria. Lui intanto gliene tolse un'altra. Dai, Cap, smettila, disse Mary proteggendosi la crocchia con le mani. Laura, aiutami tu. Laura vide che la situazione era disperata. Solo lei, infatti, sapeva che la crocchia di Mary era posticcia. Bisognava impedire a Cap di levar le altre forcine o quella bella massa di capelli sarebbe venuta via. In quell'istante le cadde in grembo uno schizzo di neve sollevata dagli zoccoli di Prince. Cap era girato di lato a battagliare con Mary. Laura prese il gromo di neve e glielo infilò nel collo. Oi! Gridò Cap. Mi sa che dovrei fare qualcosa, Wilder. Due ragazze sono troppe per me. Ah, io devo guidare, rispose Almanzo. E tutti e quattro scoppiarono a ridere. Com'era facile essere allegri in primavera. Mantenere una concessione. L'indomani zio Tom prese il treno diretto a est. Quando Laura tornò a casa da scuola era già partito. Era appena uscito, disse mamma, che è venuta la signora McKee. È molto preoccupata, Laura. Voleva sapere se te la senti di darle una mano. Ma certo, se posso, esclamò Laura. Che è successo? Per quanto avessero lavorato sodo durante l'inverno, i McKee non avevano ancora i mezzi per trasferirsi in campagna. Il signor McKee doveva continuare a lavorare alla segheria finché non fosse riuscito a mettere insieme abbastanza denaro per comprare attrezzi, sementi e bestiame. Ma voleva che la moglie e la piccola Mattie, la loro figlioletta, durante l'estate andassero a vivere sul terreno che aveva in concessione per mantenere il diritto di tenerlo. La signora McKee aveva detto che sola, sperduta in mezzo alla prateria, non ci voleva stare. Pazienza se perdevano la terra. Non capisco perché si agita tanto, disse mamma, ma evidentemente è una cosa che la spaventa. Sarà l'idea di non avere nessuno intorno nel raggio di miglia, tant'è vero che avevano già deciso di lasciar perdere la concessione, ma quando lui è andato al lavoro lei ci ha ripensato. Dice che se vai con lei, se la sente di stare laggiù tutta l'estate, ti darebbe un dollaro a settimana solo per farle compagnia. Dov'è la concessione? Chiese papà. Da qualche parte a nord di Manchester, rispose mamma. Manchester era un insediamento nuovo a ovest di De Smet. Che dici, Laura, ti va? Chiese papà. Direi di sì. Dovrò perdere gli ultimi giorni di scuola, ma posso studiare per conto mio e non mi dispiace guadagnare qualcosa. I McKee sono brava gente e questa per loro sarebbe la soluzione perfetta. Se te la senti, puoi andare, decise papà. È un peccato però che tu non sarai qui quando Mary verrà a casa, disse mamma. Beh, se aiuto la signora McKee a sistemarsi e sto con lei finché non si abitua, magari posso tornare a casa in tempo per vedere Mary, disse Laura. Va bene, vai pure, rispose mamma. Inutile fasciarsi la testa prima del tempo, che poi magari tutto si sistema da sé per il meglio. Il giorno appresso, dunque, Laura partì in treno per Manchester con la signora McKee e la piccola Matty. Era già stata in treno una volta, quando con mamma e le sorelle erano venute all'ovest dal Plum Creek, sicché, seguendo il frenatore che faceva strada nel corridoio tra i sedili, si sentì una viaggiatrice esperta, non come chi non aveva mai visto un treno in vita sua. Erano 7 miglia fino a Manchester. Là i ferrovieri scaricarono le masserizie della signora McKee dal vagone merci che precedeva quello dei passeggeri e il carrettiere che era venuto a prenderle cominciò a caricarle sul carro. Ma poiché non aveva ancora finito quando il padrone dell'albergo si mise a picchiare su un triangolo di ferro con un picchetto per avvertire che il pranzo era servito, Laura, la signora McKee e Matty andarono a mangiare. Avevano appena finito che il carrettiere si presentò col carro carico e le aiutò a sistemarsi tra materassi, stufa, stoviglie, tavolo, sedie, baule e casse di viveri. La signora McKee sedette davanti, accanto al conducente. Laura e Matty erano sedute dietro, coi piedi penzoloni dal bordo del cassone. Per non cascare di sotto, con tutti gli scossoni che prendeva il carro, dovevano aggrapparsi l'una all'altra e alle corde che legavano il carico. Non c'era strada. A tratti le ruote del carro affondavano nel terreno intriso d'acqua e il carico ondeggiava di qua e di là, ma andò tutto bene finché giunsero a un avvallamento dove il terreno era paludoso e tra le erbe e le canne occhieggiavano pozze d'acqua. Non so qua, disse il carrettiere, non mi piace questo tratto, ma non c'è modo di aggirarlo, proviamo a passare. Se andiamo di corsa, magari le ruote non fanno a tempo ad affondare. Come furono sul bordo della palude, disse: Tenetevi forte! Prese la frusta e aizzò i cavalli che accelerarono il passo finché, spronati anche dalle sue urla, passarono al galoppo. Due ali d'acqua si levarono ai fianchi del carro. Gli scossoni erano tali che Laura dovette aggrapparsi alle corde e tenere Matty stretta a sé con tutte le sue forze. Poi, di colpo, tutto quello scombussolio cessò. Erano arrivati dall'altra parte e il carrettiere aveva fermato i cavalli per farli riposare. Beh, ce l'abbiamo fatta, disse. Visto? Non bisogna lasciare alle ruote il tempo di affondare, che se uno si impantana qui voglio vedere quando esce. Non c'era da stupirsi che avesse l'aria sollevata. Guardando indietro non si vedeva traccia di ruote nella palude. Dove erano passati era tutta acqua. Dopo un bel tratto arrivarono a una baracchetta nuova che sorgeva isolata in mezzo alla prateria. A 1 miglio di distanza se ne vedeva un'altra e ancora più a est, quasi all'orizzonte. Una terza che si distingueva appena, tanto era lontana. Il posto è questo, signora, disse il carrettiere. Scarico e poi vado a prendere un carro di fieno. Vi servirà da combustibile. Il tizio che stava qui l'estate scorsa non ha retto e se n'è tornato all'est, ma vedo che ha lasciato dei covoni laggiù. Scaricò il carro, portò tutto dentro, montò la stufa e andò a prendere il fieno. La baracca era divisa in due stanzine da un tramezzo di legno. La signora McKee e Laura montarono un letto in quella dove avevano messo la stufa e l'altro nell'altra. Una volta che ebbero sistemato il tavolo, le 4 sedie e il baule, non restò molto spazio. Per fortuna non ho portato altro, disse la signora McKee. Sì, come direbbe mamma, se c'è l'essenziale c'è tutto, disse Laura. Il carrettiere tornò con un carico di fieno e quando se ne fu andato riempirono i pagliericci, fecero i letti e sistemarono le stoviglie. Poi Laura si mise a fare tronchetti di fieno da usare come combustibile. Matty li portava in casa via via perché la mamma potesse tenere accesa la stufa e preparare la cena. La signora McKee non aveva mai visto fare un tronchetto di fieno, ma Laura aveva imparato durante il lungo inverno. Quando sulla prateria scese il crepuscolo, i coyote cominciarono a urlare. La signora McKee si affrettò a sprangare la porta e a chiudere le finestre. Non capisco proprio perché lo Stato ci obbliga a fare questa vita, disse. Che utilità c'è a tenere una donna su una concessione tutta l'estate? Beh, è una scommessa, come dice papà, rispose Laura. Lo Stato scommette un lotto di terra sul fatto che uno non riesce a starci per 5 anni senza morire di fame. E infatti, nessuno ci riesce, disse la signora McKee. Chi ha fatto quella legge dovrebbe sapere che chi ha i soldi per coltivare un lotto di terra ha i soldi anche per comperarsi una fattoria. Chi i soldi non li ha deve guadagnarseli. E allora che senso ha fare una legge che lo obbliga a stare sulla sua concessione se è palese che non può starci? Alla fine significa che stare lì senza far nulla per 7 mesi all'anno è la moglie con la famiglia. Se potessi restare in paese invece di essere qui con le mani in mano, potrei guadagnare qualche soldo anche io facendo la sarta e servirebbero a comprare attrezzi e sementi. No, devo dire che certe volte mi viene da credere ai diritti delle donne. Se fossero loro a votare e a fare le leggi, le cose andrebbero con molto più buon senso. Oh, sono lupi? No, no, solo coyote, non fanno niente, disse Laura. Erano tutte e tre così stanche che non accesero neppure il lume, ma andarono subito a dormire. Laura e Matty in cucina, la signora McKee nell'altra stanza. Quando furono sotto le coperte, un grande senso di solitudine riempì la baracca. Non che Laura avesse paura, ma non le era mai capitato di trovarsi in un posto così solitario senza papà e mamma e le sue sorelle. I coyote si stavano allontanando. Li sentii lontano, poi ancora più lontano, poi non li sentii più. Anche la palude era troppo lontana perché arrivasse fin lì il gracidio delle rane. Non c'era nessun rumore, a parte il fruscio del vento sulla prateria. Il resto era solo silenzio. A svegliarla fu la luce del sole in faccia. Le faccende vennero sbrigate in un momento, dopodiché non ci fu più nulla da fare. Non c'erano libri e non c'erano vicini da andare a trovare. All'inizio fu piacevole. Per tutta la settimana Laura, la signora McKee e Matty non fecero altro che mangiare, dormire, chiacchierare un po' e tacere. Il sole sorgeva e tramontava, il vento soffiava e la prateria intorno era tutta vuota, a parte gli uccelli e le ombre delle nuvole che scorrevano sull'erba. Sabato pomeriggio si vestirono per andare in paese e fecero a piedi le 2 miglia fino a Manchester per andare a prendere il signor McKee che veniva per il fine settimana. Tornarono indietro con lui e domenica pomeriggio lo riaccompagnarono a prendere il treno perché doveva tornare al lavoro ad Esmet. Poi Laura, la signora McKee e Matty tornarono alla baracca in attesa che passasse un'altra settimana. Erano contente quando arrivava il sabato, ma era anche un sollievo quando il signor McKee ripartiva, perché era un presbiteriano osservante e la domenica in sua presenza non si poteva ridere e neppure sorridere. Si poteva solo leggere la Bibbia, studiare il catechismo e parlare di argomenti religiosi. Ma a Laura era simpatico lo stesso perché era una brava persona e non diceva mai una mala parola. Così, tutte uguali, passavano le settimane, fine aprile, poi maggio. Le giornate ora erano più calde e andando e tornando dal paese si sentivano cantare le stornelle. Lungo la strada erano sbocciati i fiori della primavera. Una domenica pomeriggio, in cui la passeggiata per tornare a casa parve a tutte e tre più lunga e faticosa del solito, perché ormai anche maggio era finito e faceva davvero caldo, la signora McKee disse: «Certo che una corsa col calesse di Wilder per te sarebbe ben più gradevole di questa passeggiata». «Ah! Non credo che capiterà più», disse Laura. «Qualcun altro avrà preso il mio posto quando tornerò a casa». E pensava a Nellie Oleson. Sapeva che la concessione degli Oleson non era lontana da quella di Almanzo. «Oh, non preoccuparti», disse la signora McKee. «Un vecchio scapolo non sta tanto dietro a una ragazza se non ha intenzioni serie. Sarai tu a sposarlo». «Ma no», esclamò Laura. «No, di certo. Io non me ne andrò mai di casa per sposare qualcuno». E dicendo così si sentì prendere dalla nostalgia, una nostalgia così forte e improvvisa che le parve di non reggere. Cercò di combatterla per tutta la settimana e di non lasciar trasparire nulla, ma sabato, quando tornarono a Manchester, trovò una lettera che l'aspettava. Era mamma. Scriveva che Mary stava per arrivare e che se la signora McKee avesse potuto trovare qualcun altro che stesse con lei, era bene che Laura tornasse a casa perché doveva essere là quando fosse venuta Mary. Laura non osava parlarne con la signora McKee. Fu lei che a cena le chiese che aveva. Allora Laura le disse della lettera. «Oh, ma certo che devi tornare a casa», disse il signor McKee senza un attimo di esitazione. «Troverò qualcun altro che venga a stare qui». Ma dopo qualche istante di silenzio, la signora McKee disse: «Se non è Laura non voglio nessun altro, piuttosto sto da sola. Ormai ci siamo abituati a questo posto. Comunque non succede mai nulla. Laura andrà a casa e io e Matty ce la caveremo lo stesso». Così, Quella domenica pomeriggio il signor McKee prese la sacca di Laura e quando furono alla stazione, lei disse addio alla signora McKee e a Matty e salì sul treno con lui. Ma per tutto il viaggio non fece che pensare a loro due che se ne tornavano sole solette in quella piccola baracca sperduta nella prateria dove dovevano restare per altri 5 mesi senza avere nulla da fare a parte mangiare, dormire e ascoltare il vento. Era duro doversi guadagnare la concessione in quel modo, ma un altro modo non c'era, perché la legge era quella. Mary torna a casa. Laura era felice di essere di nuovo a casa. Nella fattoria di papà. Era bello tornare a mungere la vacca e avere latte da bere a volontà, burro da spalmare sul pane e il buon formaggio fresco di mamma da mangiarci insieme. C'erano l'insalata e i ravanelli rossi da raccogliere nell'orto. Le erano mancate tutte quelle buone cose perché nella concessione dei McKee non c'era ancora nulla di tutto ciò. A casa invece ora avevano sempre anche le uova perché il pollaio cresceva. Laura aiutava Carrie a cercarle nel fieno della stalla e nell'erba alta dove le galline tentavano di nasconderle. Un giorno Grace trovò una nidiata di micini nella mangiatoia. Erano nipoti di Kitty, la gattina che papà aveva acquistato per 50 centesimi. Kitty riteneva suo dovere nutrirli e andava a caccia anche per loro, oltre che per i suoi amicetti. Portava a casa più citelli di quanti tutti loro potessero mangiare e ogni giorno lasciava quelli d'avanzo sulla porta di casa per mamma. Dico, non ho mai avuto tante attenzioni da una gatta, commentava lei. Giunse finalmente il giorno in cui Mary sarebbe tornata a casa. Papà e mamma andarono a prenderla in paese col carro e perfino il treno quel pomeriggio parve diverso dal solito, quando lo videro apparire in lontananza con le sue volute di fumo che si scioglievano in una riga nera all'orizzonte. Poi, dalla collinetta dietro la stalla e l'orto videro gli sbuffi bianchi del vapore, sentirono il fischio e quando il lontano sferragliare delle ruote tacque, seppero che il treno si era fermato alla stazione e che presto avrebbero rivisto Mary. Che emozione e che confusione quando finalmente il carro venne su dalla scarpata della palude. Ecco Mary, seduta tra papà e mamma. Laura e Carrie cominciarono a parlarle tutte e due insieme e Mary cercava di rispondere a entrambe nello stesso momento. Grace si cacciava continuamente tra i piedi di tutti con gli occhioni azzurri spalancati e i capelli al vento. Mentre entravano in casa, Kitty schizzò fuori come un fulmine con la coda ritta. Non amava gli estranei e non aveva capito che quella era Mary, o forse l'aveva dimenticata. Non hai avuto paura a venire tutta sola in treno? Chiese Carrie. No, disse Mary con un sorriso, non ho avuto nessuna difficoltà. All'università facciamo spesso delle cose per conto nostro. Fa parte della nostra formazione. Sembrava molto più sicura di una volta, e invece di starsene seduta sulla sedia a dondolo si muoveva per casa senza esitazione. Papà portò dentro il baule e Mary andò là, si mise in ginocchio e lo aprì proprio come se lo vedesse. Poi tirò fuori uno alla volta i doni che aveva portato. Per mamma c'era un centrino da mettere sotto la lampada fatto di fili intrecciati con una frangia di perline colorate tutt'attorno. Oh, è bellissimo, Mary, disse mamma felice. Per Laura, Mary aveva fatto un braccialetto di fili intrecciati di perline bianche e azzurre. Per Carrie un anello di perline bianche e rosa. Che bello! Oh, che bello! Gridò Carrie. E mi sta alla perfezione, guardate! Per Grace c'era una seggiolina per la bambola fatta di perline infilate su una struttura di fil di ferro. Grace era talmente emozionata che se la girava e rigirava in mano senza quasi riuscire a ringraziare. «E questo è per te, pa», disse Mary, porgendo un fazzoletto di seta azzurra a papà. «Non l'ho fatto con le mie mani, ma l'ho scelto io. Io e Blanche. Blanche è la mia compagna di stanza. Siamo andate in città un giorno per cercare qualcosa per te». Lei i colori un po' li vede se sono ben definiti, ma il commesso non lo sapeva. Ci siamo divertite a fargli credere che riuscivamo a distinguerli al tatto. In verità era Blanche che mi faceva capire che colore avevo in mano. Che fosse ottima seta, però lo sentivo e lui non si è accorto di niente. Come abbiamo riso poi, disse Mary e scoppiò di nuovo a ridere al ricordo della scena. Mary aveva sempre il sorriso sulle labbra, ma quant'era che non la sentivano ridere così di cuore, da quando era piccola. Vederla così allegra e sicura di sé valeva tutti i sacrifici che avevano fatto per mandarla all'università. Scommetto che non c'era fazzoletto più bello in tutta Vinton, disse papà. Come hai fatto a infilare ogni perlina al posto giusto senza mai sbagliare colore? chiese Laura, osservando il braccialetto che si era messa al polso. Qui non c'è un errore nel disegno. Ingannare un commesso è un conto, ma fare un lavoro così è un'altra cosa. Qualcuno che vede ci divide le perline per colore e a quel punto basta ricordare la posizione delle scatolette. Beh, a te viene facile, hai sempre avuto ottima memoria. Io non sono mai riuscita a imparare tutti i versetti della Bibbia che sapevi tu. L'insegnante di catechismo è stupito che ne sappia tanti, disse Mary. Ma è il fatto di averli imparati in casa, mamma. Mi ci è voluto poco per imparare a leggerli in braille, la scrittura in rilievo, perché li conoscevo già. Ed è per questo che ho imparato a leggere in braille molto più in fretta delle mie compagne. Mi fa piacere, Mary, disse mamma soltanto. Ma le tremava la voce e tutte capirono quanto era felice. Questa è la tavoletta per scrivere in braille, disse Mary, prendendo un oggetto dal baule. Era un sottile foglio di metallo di forma rettangolare, racchiuso in una cornice di acciaio, con una barra, anche quella di metallo, che lo attraversava da una parte all'altra. La barra, che scorreva su e giù e si poteva fermare nel punto che si voleva, era tutta bucherellata da file di quadratini. Legata alla cornice con un cordino c'era una sticciola di metallo appuntita come una matita. Mary spiegò che era lo stilo, la matita per scrivere in braille. Ma come si usa? Chiese papà. Ora vi faccio vedere. Infilò un foglio di spessa carta color crema sotto la barra. Poi fece scorrere quest'ultima fino a contatto con il lato superiore della cornice e la fissò in quel punto. Dopodiché, con la punta dello stilo, cominciò a pungere qua e là negli angoli dei buchi quadrati. Ecco, disse sfilando il foglio e girandolo. Dove aveva premuto lo stilo, il foglio aveva un puntino in rilievo che si sentiva perfettamente al tatto. Quei puntini formavano piccoli disegni delle dimensioni dei buchetti quadrati. Erano le lettere dell'alfabeto Braille. Qui ho cominciato a scrivere a Blanche per dirle che sono arrivata bene. Poi devo scrivere anche alla mia insegnante. Infilò di nuovo il foglio sotto la barra che fissò un poco più giù, dove la pagina era ancora intatta. Continuo dopo, disse. È magnifico che puoi scrivere alle amiche e che loro possono leggere le tue lettere, disse mamma. Sembra incredibile che sei all'università come abbiamo sempre sognato. Laura era così felice che le veniva quasi da piangere. Su, su, intervenne papà. Siamo qui a chiacchierare mentre Mary deve essere mezza morta di fame e io devo andare nella stalla. Mettiamoci subito al lavoro, così poi avremo tutto il tempo per parlare. Hai ragione, Charles, disse mamma subito. Quando torni ci sarà la cena in tavola. Mentre papà accudiva i cavalli, Laura corse a mungere e Carrie accese il fuoco per mettere in forno le gallette che mamma stava già impastando. Cenarono non appena papà fu di ritorno. Nel frattempo Laura aveva filtrato il latte. Erano felici, tutte di nuovo insieme dopo tanto tempo. In tavola c'erano purea di patate, le uova fresche del pollaio, le squisite gallette di mamma appena sfornate da mangiare col burro. Mamma e papà bevvero tè, Mary volle il latte come le sorelle. È un vero lusso, disse. All'università non abbiamo mai latte così fresco e buono. Avevano così tante cose da raccontare che naturalmente non riuscirono a dirle tutte, ma l'indomani avrebbero avuto un'altra lunga giornata insieme e quando andarono a dormire fu di nuovo come ai vecchi tempi, quando Laura e Mary dividevano lo stesso letto. Fa caldo ormai, non mi scalderò i piedi contro di te come facevo sempre una volta, disse Mary. Sono così contenta che sei qui che non avrei niente da ridire, disse Laura. Anzi, mi farebbe piacere.